qualche camionista, non sono io, sono da Sassari. No, sono di Giulgiano, ciao, buonasera, Claudio Sparghiero da Sassari, ciao, buonasera. No, stavo facendo le prove, no, ho sentito anche a te che stavi provando, quindi io ti ho risposto, vai. Sto facendo le prove, sto provando un base Colt. Stavo aspettando appunto un amico per fare delle regolazioni. Ehi, ehi, va bene, vai. KK, no, io sono solo con la potenza della radio. Pochi watt. No, non c'è niente agganciato, vai. Va bene, continua pure, io sono qua intanto, vai, sto facendo dei controlli così microfonici, eccetera. Sto facendo un po' di pulizia, vai. Gappa anche a te, vai, sono qua in ascolto se hai bisogno di qualche controllo. Pace via! Detto perché sei con questo reverbero. Reverbero? Adesso c'è? No, adesso no. Che apparato? E che pare che stai usando? 3.900 Colt. Vale. Cosa? Non ho capito. E quello di quella persona che tu sai? Ehi, è positivo. Tanto bello che è, ma bello veramente. Hai detto che non lo va? Non lo va, ma a me già mi ha dato qua. Gli ho dato io. E hai... Io gli ho detto, e mi ha detto sì, lo, ma solo dei 9.8 però. Ho detto vabbè, dallo a me allora. E me lo son preso. Cavagata, ma non vuole volare più, non vuole più modulare. No, c'è altre cose, vai, per la testa, no. In questo momento non mi interessa più niente. Sono preso anche l'amplificatore che gli avevo dato, gliel'avevo venduto e me lo sono ripreso FL2100. Quanti fatti è questo? No, il valvolare già è HF10, 10, 15, 20, 40, 80 a bande, capito? HF, 2 kW. E già mi fai, che si può suonare? E io me lo tengo, ce l'avevo, se mi capita di usarlo lo collego alla... 430 di nuovo. E lei lo ringrazia. Ehi, che lo ringrazia, lei ne l'è fatta ma per pagare, per essere pagata, invece pagare 100 e pagare 200, ma già non è il mio caso, già non lo uso. C'ho l'altro, va. C'ho l'altro che è lo stato solido. Com'è regolata? Mi ricordo queste regolazioni che ho. Già va bene, Claudio. Ma quanti watt dà questa? Questa è 2.5 watt, picchi di 40. No, una bomba. Questa è una bomba. Questa è una bella radio, ma forte, però, ma è forte, forte, forte. Ho attaccato l'amplificatore allo stato solido con 2.5 watt, mi sono spaventato. In seconda marcia, cosa che con la radio normale, seconda marcia ne da 250, con questa ne da 350. Perché stai fischiando, sei tutto a fischietti. Ma se ti chiudo l'ecco, guarda la radio che c'ha col microfono normale, guarda. Ula, ula, ula, ula. Questa è la modulazione col microfono normale, senza ecco, guarda che bella. Quando è fatta da professionisti, per forza è forte. Va bene, va bene. Già, io non ti capisco, sei tutto a fischi, tutto a inneschi, cosa sei combinando? Ma non ti capisco, sei tutto a fischi, ti ho detto, sei tutto a inneschi. Ehi, tutto a inneschi, sei... Sì, tutto a inneschi, tutto un innesco, semi. Guarda adesso. No, sei tutto un innesco. Non so, controllo la batteria, cosa stai usando? Cosa che stai combinando? Cosa stai usando lì? Il gara siccome. C'è qualcosa che non va. L'ho comprato il sottomecco, lunedì me lo consegno. Quella cosa che ti avevo detto l'ho comprato. Fa 200 euro, ma qua va giù una radio, ma te cristiani. Non vintage. Sei tutto fissi già, controlla a vedere cosa è, boh. Non so, sei tutto innesco. Sempre tutto inneschi, sì, proprio non si, per poco non riesco a capirti neanche la voce. Te l'ho mandata già. Questa vabbè è fatta particolare, però è quella la radio. Te l'ho mandata. Tutta rossa come piace a te me. Siamo, dai, non c'è problema, vai a fare due. Giovanni, doppio Roma, cambio. Ehi, ehi, adesso già stiamo a Luca. E lo ci prende merenda, Luca. Merendando, sì, Luca, cambio. Oh, grazie. Ehi, yeah. Buonasera, Luigi da questa parte. Oh, Luigi, Luca. Oh, stavo facendo le prove. È entrato questo Giovanni da Alfieri, non so chi sia, boh. Ma è Luigi Vulcano, sì, no? Ho detto, sono Claudio Sparviero. Ah, boh, sarà... Ah, Giovanni, oh, boh, sarà Giovanni, quello di Buduzzo. Oh, Buduzzo, ha detto, boh, forse si trovava Alfieri, boh. Ma cosa c'è, barra pesante? Perché mi ha detto che era in macchina, in camion, boh. No, non so se Giovanni è quello di... Ma oh, poi ce n'è anche un altro lì a Chirivani, è vero, ce n'è anche uno a Chirivani. E allora quello che mi ha detto lì, Ozziri, mi ha detto Ozziri, a me da Rassaleva che fa Andorra, non ne buscio più di quest'acqua blu. E questa radio qua? E questa radio provando la sto, era una che avevo dato io, adesso me l'hanno restituita, lì. Ma giusto oggi per provarla, poi me la uso nel canale 45, stavo facendo due regolazioni. Positivo, no, c'è un bel di radio, c'è un bel di radio e poi è molto corposa, capito? Molto corposa rispetto, vabbè, la voce tua la fa così grossa. Ehi, già lo sai, mi avete insegnato a portarle queste radio, io poi uso... No, questo è il microfono suo originale, ma sono agganciato e Gigi forse per quello. Ci ha picchi allucinati questa radio, un 3009 Colt. Ho capito, cos'è un? Un 3009 Colt, 3009. Un 3009 è fatto con la scheda Colt, ho capito. Sì, già la conosci. Me l'aveva data Massimiliano a suo tempo, poi l'avevo data, adesso me l'hanno data. Ma ascolta, ma qual è? Ma non è quella che abbiamo fatto degli aggiornamenti adesso, da ultimamente, no? Non è quello lì. No, questa l'avevo data, me l'avevo data boh, due o tre stati fa Massimiliano e io l'avevo data boh, quasi subito, eh. È positivo, dai, positivo, no? Perché c'era anche una che l'abbiamo, diciamo, mandato, abbiamo cambiato una cosa, dai, non so se quella lì, comunque vabbè, dai, no. C'ha due finali quella lì, non ha uno, due finali è quella lì, eh. Ehi, questa pompa, questa 2,5 sale a 40. No, ho già capito qual è, quella col display verde che avete mandato Dalvi, quella lì. No, non è quella, no, tranquillo, non è di Massimiliano comunque. Ma è gemella più o meno di quella lì, perché quella è bella amica, anche quella che ha mandato, che abbiamo fatto quelle cose, è bellissima quella radio, quella di Massimiliano, un'altra che ne ha ancora, dai. Sì, già le conosco, e le ho anche tutte provate quelle sue. No, questa non è a frequenzimetro, quella che avete mandato Dalvi, quella c'è a frequenzimetro. Questo non è, questo è il 3009 prima serie, diciamo, ora. Capito? Ho capito, ia. E tipo l'altro che ho io, ce l'avevo in camion, quello è tipo il 3009, dai, è uguale, quello che ho adoperato ultimamente in camion io, dai, quello grande, era così quello lì, era uno di quelli, dai. Ehi. Sì, simile a quello, ma cambiano solo il colore. Quello tuo era rosso così e quello là era blu invece. Il mio era blu e quello di Massimiliano era rosso. Il mio era blu e quello di Massimiliano, il mio ce l'ho ancora, è blu. E invece quello di Massimiliano l'avevamo fatto tutto rosso, tutto, se accendo le pomiglie, tutto rosso quando accendi, quello di Massimiliano. E penso che ce l'abbia ancora. Ehi, già ce l'ha, come questo, è questo lo stesso così, tutto pomelli, canali, tutto un colore, smitter, tutto uguale, beh. Aspetta che sgancio lui che sono agganciato, stavo facendo le prove a vedere i picchi di modulazione che avevo. E voi dicevo già va bene comunque. Alla grande va bene, vai, così ho sganciato. Fare due passaggi quando c'è propagazione nel 45 basta, non è che lo uso per adesso c'è l'eco tutto chiuso, che bella radio che c'ha. Sì, però c'hai, ma il making tutto al massimo ce l'hai, perché è troppa, ne è troppa, come questa io l'ho dovuto chiudere perché mi dicono che c'ho troppo, è troppo fastidioso come radio. Vabbè la mia voce, Gigi, sì, è tutto al massimo, la devo chiuderlo leggermente, guarda, l'ho chiuso così appena, beh, va. No, è anche questo, guarda, te lo faccio vedere, così è tutto al massimo, guarda, tu sei al massimo, è quasi ore 15 è così. Vabbè, ma io già sono abituato a sentirmi con la radio alta, questo è il microfono normale, quindi non è che ci siamo molti discorsi da fare, già va bene. Ehi, aspetta che stavo rispondendo a mio nipote che mi stava dicendo cose, ma ti stavo seguendo, fra. Ehi, fai Gigi, io sono qua, io non c'è problema. Stavo solo facendo delle prove, poi c'era Gianni Doppio che c'ha il microfono un po' in avaria, e quindi stavamo facendo le prove, c'era Luca. No, l'ho chiamato Massimiliano dallo zio, mi ha detto già rientra dopo per fare appunto, per fargliela sentire come andava. È positivo, già sono fatte da maestri, dai, si sente che è fatta da gente competente, dai. Questa me l'aveva data lui, questa è Team Mister Bambolo. Allora già va bene, già è bravo, lavora bene Mister Bambolo. Va bene, poi c'è Barone, no, quello è Leo Barone Rosso, l'altra, quella che abbiamo parlato, però anche quello fa bene, poi c'è Sabatino che fa bene. Questa che sto trattando, questa l'ha fatta un'altra ancora, sempre sul continente. Questo si chiama Pietro Ergastolano, lo chiamano. L'ho già sentito, no, questa è del team Mister Bambolo. Ce l'ho proprio scritto, quindi no, non c'era a sbagliare, dai. Me l'ha dato Massimiliano, quindi già è tutta roba fatta seriamente, poi quelle che avevo preso da te, però quelli erano 48, invece questo l'avevo preso due o tre stati fa, adesso non mi ricordo, ma l'avevo dato subito, intanto non lo usavo, capito? Mi avevano rotto le palle alcune persone, e allora me ne ero disfatto, ma non persone cibi, attenzione. Adesso mi sono rimesso in gioco e non me ne fotti più nulla e giochiamo. È positivo, no? Ma poi avevamo fatto, ci avevano mandato il frontalino che avevo io, se c'era lo squalo, il coso, ci aveva fatto arrivare Massimiliano, lui aveva preso quello con lo celeste, con lo squalo, e lui si aveva preso quello rosso con la, come si chiama, il frontalino, l'adesivo, dai, da Mister Bambo ce l'aveva mandato. Ehi, l'adesivo Red Bull, quello lì. E quello lì, è quello rosso, a me era perché erano uguali ai baracchini, capito il mio? Infatti, infatti tutti e due la stessa persona, le hanno fatte tutte la stessa persona. Già si vede che ha fatto bene, no? Non c'è nel problema che ce l'aveva, mi ha detto che è una bellissima, poi nuova, proprio nuova di pacca, solo non la stavo usando, infatti ho tappiato di polvere, anche il microfono tutto pulito, disinfettato, ma soprattutto pulito, perché è una persona abbastanza pulita, lui mi era sporco di polvere, capito, quindi gracchiava. Allora l'ho aperto, soffiato, l'ho fatto appena spray per contatti, adesso va bene. E ma sono trattori, guarda, io ce l'avevo in camion e la accendevo dalla mattina alla sera, tu, tanto se tu ti mi sentivi da Marco me, d'accordo, io ce l'avevo ultimamente, gli ultimi anni ce l'avevo sempre quello ce l'avevo, capito, tutto illuminato di celeste, ed era una bella radio, non prendeva colpi e andavo alla grande, e l'ho avuto in camion, guarda, mi ero innamorato di quella radio. Oh, è bella, infatti ce l'ho qua, già va bene, intanto c'ho una base qua tutta piena di baracchini finta, c'è nonna, quindi abbiamo messo anche questo, già va bene, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, Luca, Gianni, questo Gianni c'aveva il microfono tutto a frusci, non ho capito cosa è successo di nuovo, Luca ci sei, Maico, per il re, non c'è nessuno. c'è nessuno. Questo era, vabbè, questo ce l'ho sempre qua in stazione, però non l'adopero molto, perché quando l'ho attaccato l'altro giorno, l'ho acceso e mi ha detto che dava fastidio che era rispetto agli altri, diceva troppo forte, essendo qui a ottarlo. E lo sto pilotando con 3 watt, 2,5 o 3, non di più, capito? E com'è questo? Anche questo sto dando 3 watt, 2 watt e mezzo, 3 watt, ma c'ha picchi 35-40. E lo vedo da qua come sale l'ago, se lo muovono, come moduli. Come fa questo, guarda, vedi come ti dà, vedi che si muove quando moduli, ti dà picchi più positivi, dai. E già lo vedo, già lo vedo. E vabbè, sono così queste radio, non è che già le conosciamo, l'esperienza anche se è poca, me la sono fatta anch'io, dai. Quindi no, non c'è problema. Però sono bella radio, bella ricezione, bella trasmissione, così ordinata, pulita, senza tutto chiuso, va alla grande, capito? Poi io con la voce che ho, quindi microfono normale, va benissimo alla grande. È positivo. Solo chi c'hai vicino tu gli spacci i timpani con quella radio, lo sai. E forse ti sto dicendo che lo so perché le capisco, insomma, sono radio che vanno sul camion a distanza, capito? E ecco che, però uno vicino all'altro, quella lì, penso che dia fastidio, ma un bel pure. Ehi, no, già, non devo usare sempre questa, no? Adesso la sto provando, perché l'ho pulita e l'ho messa a fianco alle altre. Anche così col microfono normale. Ehi, ora, ma adesso sono sempre col microfono, con la voce bella forte, io quindi già sono abituati. Con l'eco stai dicendo tu? No, ma con l'eco io la uso quando c'è propagazione nel canale 45, capite? No, così, perché quella spinge anche senza eco. Ma come questa, a me? Questa ce l'ha l'eco, vedi? Cavolo. Vedi, perché questa è con l'eco. No, io l'ho chiuso, sto facendo le prove, regolazioni per capire dove andava, ma già mi ricordavo che era meno di mezzogiorno, dai. E il michini l'ho abbassato, Gigi, l'ho messo a mezzogiorno, prima era al massimo. Però anche con la mia voce, lo sai che la mia voce spinge, no? Non c'è niente da fare. Io, allora, questa è radio, quando le fanno queste modifiche, tra loro ti dicono di operarlo a ore, massimo ore 15, perché loro lo manda dentro, li mandano di più di quanto è dovuto, hai capito? Ed ecco perché ti dicono di metterlo, dice se hai bisogno in lontananza, dice lo apri, però te lo fanno a ore 15 come regola, tutti quelli che ci ho modificato sono così, perché se lo apri tutto è troppo a radio, e di quanto è troppo tende anche a strappare, mi capito? Sì, io. Avanti Gianni. Guarda adesso come fa la radio, il microfono normale. No, sei tutto a fischi, c'è un innesco allucinante qua, c'è anche Gigi Vulcano, vai Gigi. Sì, stai innescando, c'è un fischio sotto già e non si capisce quello che dici. Non ho capito niente già, c'è un fischio allucinante, ma fortissimo, che ti copre la modulazione. Ne ho una così, stavo cercando di ripararla prima e non vedo che riuscire a cavare venire. Metti il microfono, senta, fa questo innesco, bestia, non ce l'ho fatta a suggerlo, e purtroppo l'ho lasciata perdere. E sicuramente, Guarda, io due MBP5 li ho messi dentro l'armadio perché non ne toglievo piedi con i vintage. Lo stesso, fischi, inneschi e balle varie. Li ho comprati nuovi senza essere modificati, li ho attaccati e sono una canonata. E non li tocco e non me ne frega niente, la modulazione è bellissima lo stesso. Sicuramente come sono modificati che fa così, È positivo, positivo. Adesso accendo l'altra, tanto ce l'ho portata di mano, accendo l'altra. L'altra, ti rendi conto che è molto più bassa di questa, però la adopero di più io quella, mi adesso l'accendo. Ehi, accendi Gigi, già sono qua, non c'è problema. Oh, questa è più delicata, dai, questa è molto più delicata. Ehi, non lo sai, è delicata, anche questa già spinge bene, bella corposa la modulazione. È positivo, questa è quella che adesso va con il camion qua. Sempre con 2 watt qua, questa è quella che stavo dicendo prima, che avevamo fatto le mascherine, quella io con la con lo squalo di occhi aperti, Amaro e Massimiliano, quelle sono gemelle, avevamo fatto tutte e due lo stesso posto, lo stesso periodo, prima ha fatto la mia e poi quando ho visto la mia di radio se l'ha fatta pure la sua, avevamo fatto tutte e due lo stesso periodo più o meno. E io non so se mi chiede un calamaro, cos'è, c'ha la mascherina Red Bull, poi c'è il marchietto come fa sempre, dimmi Mr. Bambolo, capito? Però boh, non so se sono calamari, cosa sono squali, boh, cosa sono. No, il mio c'è lo squalo, l'ho voluto io, c'era uno squalo grande che ha acchiappa un calamaro che fuggendo in mare, ho fatto il tipo mare, capito? Con la scritta mia sotto, col mio numerativo. E l'ho fatto fare da Mr. Bambolo. E allora guarda questo, dai. Anche questo mi pare sia che calamaro, che squalo, mi dice che ne ha fatto uno, non so, molto bella comunque, veramente. Complimenti a Mr. Bambolo, fa delle cose veramente molto molto belle. Ma aspetta vabbè dai, l'ha fatta precisa quasi alla mia più o meno ed è bellissima, l'ha fatto, inizia con la C il nome di questa persona. E già ho capito di chi stai parlando. Gianarino, l'intengo boh, non ho neanche più visto, vabbè con questo cacchio di pandemia non puoi andare più a luogo. Sì, lui l'aveva fatta, se l'aveva fatto i bordi del coso di sopra, no? Che gira nelle, non solo il frontalino davanti, il bordo di sopra, che anche quel bordo lì c'è il coso delle celeste, del coso delle, e più se l'aveva fatto anche i coperchi, capito? Quella che i coperchi ci ha fatto. No, i coperchi no, i coperchi hanno un rivestimento plastificato molto molto bello, è veramente molto bella sta radio oggi, veramente molto bella, lo sai io non apprezzo le cose belle e questa è veramente molto bella, l'ha fatta veramente bella. Sì, il bordino di sopra, non solamente frutta, il bordino ce l'ha la cornice, la cornice fatta, ce l'ha. Io c'è la cornice, tutto è fatta. Ma fatta di più come il coso di davanti, del frontalino, la cornicetta che ti giro. No, è fatta tutto come il coperchio, stesso rivestimento del coperchio. Ah, ho capito. Ma che cosa l'aveva fatta così? La città bellissimo, ho capito quello che ho detto io, dai. Finita con la città, l'aveva uno di quelli, l'aveva fatto con questo lo stesso rivestimento più o meno, ma forse era lui, cioè, no, neanche Massimiliano, forse era lui che l'aveva ordinato a noi, anche a noi, che era arrivato tutti assieme, o Massimiliano, non me lo ricordo, comunque erano arrivati tre, adesso mi sono ricordato, eravamo in tre che avevamo fatto questo lavoro, capito, eravamo in tre. Sì, già l'avevo anche vista io quella di quella persona che iniziava la C, l'avevo vista nella barra, dai. E poi ce l'aveva nel cofano un giorno che ci abbiamo preso il caffè a San Giovanni. Sì, perché lui poi si è messo un'altra radio, se l'ha preso un'altra radio, se l'ha messo un'altra radio nella barra e quella non la stava più operando e mi sa l'aveva messa in vista tempo, molto tempo fa. Non so se l'ha venduta o ce l'ha ancora, non lo so, Gigi. Veramente non lo so, comunque è da molto che non lo sento, ho qualche volta entrato con la casa sua, però adesso è da tanto che non lo sento. È positivo, positivo. E devo fare sempre impianto cosa per Paolo in quella barra e non penso mai avere tempo. E quando è entrato Pierpaolo a salutarci qua alle 10, ma non mi ricordo davvero. Non mi ricordo davvero, comunque è entrato da poco a salutarci, infatti ha detto che aveva il baracco un po' in avaria, che resistendo a te quando li ho mettivi a posto. Diciamo l'antenna che non c'ha, gli ho dato una cosa con la calamita ma si sposta e si rovescia, no? Capito? Ciao baracchino andante sotto, però il suo proprio ce l'ho qua, io non l'ho filato perché se ti rovescia l'antenna te lo brucia ed è un casino, cioè quello modificato. E anche quello modificato, però è più meno buono come può essere gli altri, dai, è andante, dai. Ehi, ti ho capito. Vabbè, comunque, anche lui già c'è un bel baracco nella barra, quindi già aveva l'antenna fissa, così e no? Sì, adesso c'è il Volvo, capito, è la macchina più nuova, è quella lì, dobbiamo trovare il sistema di metterlo, capito, l'altro era, non se ne fregava niente, bisognava anche la staffa, però questo è il nuovo, più nuovo e niente, questo... Bisogna mettergli a farglielo bene il lavoro, capito? Se no, no. Infatti c'è l'antenna, c'è la 2001 qua, pronto tutto, la niente, adesso se ne fa, ho buscato un tubo in acciaio dalla, da dove c'è la maniglia di sotto che tu ti agganci per salire sullo, per sganciare l'aria dietro, per il trattore là dietro, no? Siccome lui va sempre col pianale più o meno e c'era libero dietro, allora glielo facciamo su tubo e lo metto dietro all'altezza e superiore un pochettino a livello di cappotta quasi, però dietro, capito, su questo tubo d'acciaio glielo abbolloniamo bene e gli faccio la staffa in acciaio, gliela salto sopra il tubo tipo, ti ricordi come ce l'avevo io nel mio trattore, ce l'avevo dietro, ti ricordi come l'avevo fatto io? Mi ricordo, sì, alla grande, e così è un bel lavoro, glielo metti lì e glielo fai. Sì, c'è il suo baracchino, glielo tutto per tutto illuminato, fatto bene, i colori, tutti di tanti colori, il 48 che c'aveva, e poi gli ho detto ti posso dare anche questo, anche quello, questo gli posso dare come corso, dai. Poi il lineare no, il lineare non ha voluto più e il lineare l'ho venduto a corso, a Catramina, a Luciano Catramina, ho venduto il 750 del 524, che era del camion, che avevo due, uno per me e uno per lui. Ehi, va bene, va bene. Dai Gigi, mi stacco un attimino che ho qualcosa da fare in cucina, ma comunque è tutto acceso qua, ci sentiamo tra una mezz'oretta circa, ok, se ci sei. Positivo, là, fai quello che devi fare, tanto anch'io mollo adesso un attimino, là. Va bene, là, ciao Claudio, a dopo se coincide allora, là. Ciao. Ehi Gigi, là, a dopo, già rientro subito, una mezz'oretta che devo fare, organizzarmi la cena, poi già rientro subito, là, a dopo, ciao a tutti. Yeah, ciao. Scrivania l'altra, non mi fischiano i microfoni, perfetto. sono proprio sotto la scrivania attaccato al termosifone, quindi ho voglia che c'è caldo, non si vedono neanche i commutatori. Per commutare me devo inchinare, figurati, però commuto una volta ogni tanto, non è che sto sempre commutando, quindi va benissimo, alla grande, senza nessun problema, ottimo per la truppa. Meglio così. Oi, cosa ho voluto dire, boh, mamma mia. Quindi faccio l'accesa, computer acceso, la radio accesa, perché se no non mi sentirete. Mi ho acceso anche un altro. E niente, si passa la giornata così, tentando di imparare a lavorare in questa nuova maniera, ma sai com'è, non è molto facile, comunque, è così. Non è molto facile, già si va avanti, io lo so, per lo mio c'è roba a forno, ogni tanto vado a controllare, c'è del merluzzo con le patate al forno, stanotte roba leggera, e un po' di salattina bella fresca che mi hanno portato la campagna. È più che fresca, sarà indubbiamente anche fresca, ma sarà anche bagnata. Qua, mentre ero al telefono, ho sentito questi rumori, guardo fuori, stava, cioè il diluvio universale. Oi, guarda, mai vista tanta acqua, e soprattutto mai vista tanta acqua consecutiva, ogni giorno. Non si riesce neanche a stendere ormai, è quasi impossibile. Bene, c'è la roba è tra un caso con gli stendini, io ho due, uno qua nella camera, c'è la radio perché è molto calda, la sera c'è un po' di caldo qua, quindi asciugo il freddo, l'altro nel salone, già ci sono le bandine di Filippo qua. Prima a campare di come i zingari, ma dimmi tu, ma qui sta facendo un disastro, un casino nero, non lo so, io ho amici a Valedoria, a Santa Maria Covina, se i carciofai che sono disperati, ma non solo quelli, anche la parte di Itri, sempre padri di colleghi di lavoro, ex colleghi di lavoro, c'hanno la campagna, quindi orto, verdura, cioè è tutta la gatta, non se ne toglie i piedi. Già lo credo che è calda, con tutta quelle radio. Anzi, vedi, ce ne sono pochi accesi. Stamattina c'erano tutti i vintage accesi, tutti gli HF accesi, c'è un bel calduccio, ti dico. Ciao Marco, buonasera. Salve, sono i Fornelli, però non c'è speranza, dai, mi è venuta male una cosa. Salve a tutti, sono passato adesso, non so chi ci sia, ho sentito Gianfranco solo. Buonasera a tutti, vai Gianfranco. Ciao Marco. Attento al fumo qui, se ti è andata male vuol dire che sei bruciato qualcosa. Eh sì, le mie conoscenze culinarie sono limitate, molto molto limitate. Un attimo che cambio radio, riprendete pure. Ok, premimi la portante e poi fammi un fischio, un solo fischio, però un fischio, dai. Questo non è il 140, questo è il mitico 430, vabbè c'ha 30 anni, però io ce l'ho da 10 anni, non hai fatto niente. No, ti spiego, perché ho messo la cosa, come si chiama, il display con lo schermo grande, quindi con i numeri grandi, da che gioco a palla, e quindi anche grande ovviamente è diventato lo smitter, che ovviamente è digitale, però sono comparsi finalmente anche nei numeretti della striscia rossa, posto dei puntini. Quindi sì, proprio una cosa decimillesimale sotto il 9,40. Questo arriva al 9,60, così c'è scritto, però guarda, neanche se mi metto con il portatile attaccato faccio che carino, però se mi compra il 9,40. Ottimo, questo c'ha 10-15 watt di portante bianca e all'incirca 30-40 modulati. No, va bene, sta radio. Va benissimo. benissimo, vanno molto bene sia il 140 che il 430. Vanno alla grande, ogni tanto mi esce 440, ma solo perché sono talmente abituato a nominarla con la radio che già mi manca, perché la radio mi è sempre piaciuta, l'ho tenuta 10 anni, ne ho cambiato 10 anni, ne ho cambiato 9, però basta così, già mi accontento di questa che non ha niente da invidiare, già va bene. Sì, dimmi invece io a che quota sono, se c'è del modulato come dico oppure se solo segnale, che poi faccio un'altra prova giusto per curiosità, perché lui mi segna lo strumento, mi segna uno e la radio mi segna uno lo stesso. Molto piccolo e stabile, si muove appena appena, sei 9 più 30 e la radio è super 5. Oh, vediamo un po', quindi no, è già troppo, guarda, sto mettendo, sono a zero, cioè la radio non segna più niente, lo strumento non segna quasi niente, ci sono ancora. Claudio, mi senti? Vediamo un po' così. Claudio, mi senti adesso? Proviamo così. Claudio, mi senti? Arrivi. Ah, allora è Claudio che si è allontanato. E allora lo chiedo a te, Marco. Guarda. C'è un bel forno, cazzo. Ti faccio il passaggio, adesso mi senti. Però tolgo tutto. Vediamo tutta la potenza, va a zero, in modo che segni zero. Sono a zero, mi senti sempre? Sì, sì, questo è uno smitter a LED, segna 9 più 10, c'hai il 9, poi il 10, il 20 e il 30, sei sul 10, più 10. E il Claudio c'è roba al forno, capito? E magari anche lui si è distratto e ha fatto la fine del quadrotto. Sono esattamente... E neanche il picco segna, figurati. Forse 100 milliwatt dovrebbero essere, perché sulla radio sono spariti le misurazioni, quindi è zero, mentre sullo strumento sono 100 milliwatt. No, sono qua, dai, sono andato a girare la roba che c'è al forno. Allora, hai chiuso e sei passato a 9 più 30, 9 più 20, stabile, mentre invece quando apri sei più 30 con qualche picchio positivo. La radio segna zero, proprio ho tolto tutta la potenza, sono 100 milliwatt. Impossibile. Questa antenna, nonostante i 30 e passa metri di cavo, anzi non sono più di 30, saranno buoni 40-45, perché poi il cavo ovviamente deve salire, si mantiene bene. Poi il cavo è messo ai tauloni, è subacqueo addirittura, quindi produzione italiana di altissima qualità. Non lo so come la pensa Marco, ma per me è possibile che sta uscendo 100 milliwatt già fra. Perché cazzo sei 9 più 20, cioè scendi di 10. Ma a te Marco quant'è? Allora, io sto usando il 9009 come apparecchio. E rispetto, cioè qua è a LED a 9 più 10, però non è attendibile. Io una volta avevo fatto una prova mettendo un watt più l'attenuatore famoso riduttore di potenza ZG ed ero arrivato sì in prossimità dei 150, forse 200 milliwatt, può darsi pure che fossero davvero 100, e arrivavo Santiagotto da doppio room, con la 5 ottavi sempre. Gianfranco diciamo che arriva molto forte per dove lui è, arriva già molto ma molto forte. Sì, no, claro, tu lo sai, io no, non è contro le tagie, quelli giocattoli lì, no? Io ho la serie blu qua, quella professionale, ed è 100 milliwatt, mentre la radio non segna proprio un tubo, proprio non gira quasi 30, cioè non premo, però di potenza no, non me ne dà. Ma in verticale? C'è antenna verticale? C'è il master. Sì, comunque Claudio è vero, io mettendoli qua, per esempio a doppio room arrivavo a Santiago 8 o giù di lì, comunque anche con 100 milliwatt ti garantisco che copri tutta Sassari, perché l'antenna è sul tetto comunque. Noi potremmo parlare con 100 milliwatt nel circondario di Sassari senza problemi, per dire, no? però questa radio c'ha sempre il suo vizio. ospita, l'hanno fatto altre radio di questa serie. Primi e scende di un canale. È qualcosa che ha a che fare con le resistenze dei tastini up down. Magari come primi. Io adesso volevo attaccare un'altra cosa, però non posso parlare ovviamente con questa cosa perché il misuratore di antenna praticamente che permette quando è in fase di controllo ROS ovviamente di mandare un segnale in aria. Volevo vedere se sentivi anche il segnale in aria, perché se senti quello dovrebbero essere 10 millivatt, una cosa del genere. Devo cercare solo un connettore e fare questo esperimento. Oh, scusa Marconi, ti rubo un attimo il microfono. Mi assento 10 minuti che mi sistemo queste cose, così mi seguo, se no non capisco un cacchio. Riprendi. Ok, ma fai pure. Ehi, fai pure. Hai detto Gianfra, cosa devi misurare? Il segnale d'aria, non ho capito. No, allora, siccome questa radio meno di così non può scendere, perché è già a zero, voglio collegarci il misuratore di antenna, che è un rigetter praticamente. Se non ricordo male, lui, per misurare le stazionarie dell'antenna, ovviamente, manda praticamente un segnale, e quindi questo segnale dovrebbe essere all'incirca di 10 milliwatt, più o meno, se ricordo bene. E volevo vedere se tu lo senti, non sentirai il parlato, però sentirai probabilmente una portantina o dei scricchioli o roba del genere. Ok, il tempo di collegare uno spino. Proviamo un po', dai. Levo anche lo squelch. Vediamo. Ma 12 milliwatt reali, cioè come li misuri? Lì ci vuole proprio un milliwattmetro. No, non lo posso misurare. È giusto per avere un qualcosa che trasmetta talmente basso da quasi non sentire. Prova un po', dai. Rimango all'ascolto. Non è questo, no, non è possibile, 9 più 20 non è possibile. No, non mi entra il PL, non c'è fatto un PL infettoso. Ma io devo cercare un altro cavo, che quello che sto usando è messo proprio male. Eia. Ma sta piovendo, porca miseria. Sta sempre piovendo, che rottura. Prova. Test 1, 2, 3. Quelli stazionari è come bagnata l'antenna. Ciao Marco. Giulio, ciao Giulio, eri tu? Sì. Sì, dai, sto facendo conto, continua. Ciao Giotto, se mi ascolti. Continuate, sto facendo cose. Ehi Giulio, hai una voce, mamma mia, molto giù sembri. Sì, sto parlando sotto voce, perché l'ho addormentato poc'anzi. Allora è voce del sonno, dai. Sì, me lo fa anche qua a me, io metto il volume basso basso nel baracchino, mi sdraio di lungo sul divano, mi metto una copertina, un cuscinetto dietro la testa, ascoltando le voci proprio basse, basse, basse, mi induce la sonnolenza. Vediamo se Gianfranco ha fatto la manovra. Sì, la devo impostare la frequenza, un attimino. Anzi, sì, imposto la frequenza, poi ti richiamo. Ciao Giulio, se mi senti, perché sto andando un pochi minuti qua. Sì, che ti sento. Santiago sì, ti sento. Ok, Martino, poi ti comunico che sono pronto. E dopo la mentina, avanti Marco, dopo la mentina com'è? Adesso è molto più pimpante la voce Giulio, molto molto più pimpante. Ehi, io sento rumore qua, sicuramente sta piovendo, sento un brusio fuori. Ehi, sto facendo girare un po' di apparecchi, uno al giorno, questo è il 9009 della CRT, sembra che tutto funzioni ancora, meglio, Beh, comunque alla fine uno ne serve di apparecchio, tutti gli altri fanno da contorno. Vabbè. Ciao Marco, che sono Baffolo. Ciao, ciao Cla. Oh Marco, quel PMR lo devo spedire indietro, anzi diciamo che vengo loro a prenderlo, perché mi si era messo la chiave del blocco e non funzionava più la tastiera, quello che un tempo fa abbiamo provato insieme, ti ricordi? Diciamo portatile, no, non mi ricordo, aspetta, sì, tempo fa abbiamo fatto una prova, ma non è che è stato premuto un tasto, è rientrato il blocco tastiera, no? Appunto, però poi non è riuscito più, non sono più riuscito a toglierlo, per cui allora lo devo rispedire indietro, ho già contattato la Amazon e vengono loro addirittura a prenderlo. Lunedì vengono, gli ho preparato il pacco e se lo riportano indietro e poi si vedrà se mi danno i soldi, se mi restituiscono i soldi oppure se me ne danno un altro, non lo so. Io sarei pronto, guardi, per fare la prova. Ok, allora lasciamo un po' di bianco, provo un po'. Ok, sto andando, tra circa un minuto per vedere cosa sta portando. Avete visto qualcosa? Zero totale. Vabbè, forse la chiedere troppo, dai. È a livello di mille qua. Quindi io l'ho vista perché era appena da me, figurati 9.20. 9.20 che sono qua, quindi è comprensibile, deve essere un mille qua, due mille qua. Sendo uno strumento. Vabbè. Sì, penso che sotto un certo limite manco in antenna arriva la non potenza, la 12 mW è una cosa proprio esigua, si perde lungo il cavo. Beh, sicuramente, sono 40-45 metri di cavo, anche se il meglio che c'è, diciamo, perlomeno per quelle dimensioni, è il metro paloni corazzato. Può essere anche sotterrato, può stare anche in acqua, c'ha delle doppie guaine, una cosa fatta veramente bene, ed è italiano, non è Cipolloni, fa casi per uso proprio serio. E vabbè, ci ho provato, era giusto una curiosità, mi volevo chiedere. Giulio, allora, ti sei svegliato bene? O meglio, ti sei svegliato, sì. Ciao Luca! E dopo l'ha sentito? C'è anche Luca, Luca! Ah, l'ho sentito solo io, non vi preoccupate. Vado a portare il cane, dai. Già torno subito, ragazzi. Se mi trovo qua. 10 minuti, ne approfitto. No, non sta piovendo un blocco adesso. Adesso l'ha smesso. No, qua sta piovendo. Caspita, se potessi farti sentire il rumore, te l'avrei fatto sentire. Hai visto come cambia, da carbonati a cappuccini? Lì non piove, qua piove. Portati l'ombrello verde, quello che usano i pastori, Claudio. Magari, Giulio, trovamelo uno, lo compro. Che bello, ce l'hai fatto quando andava in campagna o qualcosa, variava. Un ombrello verde che può chiamare. Domani con il legno robusto, domani lo bigiava il vento. Mi ricordo una volta allo stadio, alla Torres, sai, era una giornata di pioggia, e arriva questo, non stava piovendo nel momento, e arriva questo uomo con i gambali e con l'ombrello verde, quello che usano i pastori, no? Appena che l'hanno visto tutti l'hanno preso a fischi, e lui a tutti i divini, fra un po' mi date la risposta. Il caso ha voluto, è incominciato a piovere, tutti sono scappati, l'unico che è rimasto nella tribuna solo lui con la baracca verde, tutti gli altri sono scappati. Vabbè, vedete, non è l'acqua lì, no, già l'ho provato con l'ombrello, non ti preoccupare. Va bene, dai. 10 minuti già, ci sentiamo subito con la porta del cane. Bene, io adesso dai, metto mano in cucina. Ancora non abbiamo pranzato nemmeno. e francamente non ne ho tanta voglia, non ne ho voglia di mangiare, porca miseria. E quindi rilancio Gianfranco, se volete rimanere voi io mi devo assentare per dare anche a mamma la razione, dai. Io? Ok, adesso ho aumentato un quarto. Sì, va bene, siamo qua comunque. Giulio, dammi un minuto che vado a vedere se sta piovendo anche qua, perché stasera ne esce sul cielo, Volevo vedere se sta continuando. Hola. È un po' sale, non assai però. Hola, hola la cipolla. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cambia nulla qua. Giulio, dai, riprendi se ci sei. Io stacco. Ok, o più tardi o quando capita. Questa montata anche Giulio, sta piovendo comunque, confermo. Giornata grigia, a proposito.